luglio del 2024, ore 21, inizia prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì che si rispetti. www.ondarossa.info è il nostro riferimento web, dove si può trovare il banner che riguarda la nostra campagna di crowdfunding, il nostro radio abbonamento, il quale si può fare fino a settembre, fondamentale per la continuazione, la vita, l'esistenza di questa radio. E il palinsesto prevede alle 22:30, 25 o'clock. Saluto Marco di Progetto Sonoro, Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, Ernesti Panico Brusati, Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Please fasten your seatbelts. Don't forget your keys. Vado a salutare Mariano a Roma, Sara Boy a Berlino, Anna qui a Roma, Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Francesco Cornello a Bergamo, Barbara Caridi, anche lei ogni tanto compare musica macchina, il medico della peste Simone Scalise di Audio Chaos, Maglia che ci sta ascoltando in Umbria, un grosso abbraccio ad Antonio Zoviet di Omicidio, a Tabula Rasa, a Cecilia Miradoli di Pindar. Abbiamo anche fedelissimo Like Wick, storico progetto ambient qui di Roma. Riprendiamo il nostro viaggio nell'universo Franco Battiato, che ci ha portato a visitare e a risentirci Fetus e Polluscio nei primi due storici capitoli di questo artista siciliano. E continuando in Pollution ci andremo ad ascoltare Blackton e Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Thank you. Sto in mare, sta cambiando la mia struttura. E il mio corpo è sempre più uguale ai pesci. I miei capelli diventano anche un indubbio fascino vintage domina nella stesura, nelle note, nella voce, nei testi di questo Pollution Franco Battiato 1972. E ci siamo ascoltati Plankton, uno dei episodi probabilmente più legati al prog di quegli anni. E invece la conclusiva, ti sei mai chiesto quale funzione hai un geniale piagnucolare, quello di Franco Battiato, che ricordiamo da lì a poco, esattamente l'anno successivo, opera un salto in avanti rispetto alle avanguardie, concependo sulle corde di Arias. Ringrazio Antonio Zoviet delle considerazioni e del ricordarci le collaborazioni anche con Alfredo Cohen fatte da Battiato. La citazione: a me piacerebbe non essere in nessun tempo, l'ideale sarebbe appartenere a tutte le epoche, ma mi rendo conto che si tratta di un'ambizione smodata, questo diceva anche Franco Battiato. E Antonio ci ricorda anche un libro, Battiato 70, di Fabrizio Basciano, ma c'è tanto da leggere su questo artista siciliano morto il 18 maggio 2021, coincidenza vuole, lo stesso giorno di Ian Curtis dei Joy Division. Saluto Arianna Degni Lombardo e andiamo adesso in ambiti diciamo più prossimi. Noi conosciamo Raffaele Pezzella fondamentalmente per Sonologist, ma in realtà ha anche intrapreso un, come si suol dire, un progetto parallelo che porta il nome di The Great Old Ones, concentrato soprattutto sulle opere e sugli aspetti di Howard Philip Lovecraft. Soprattutto questo Mythos of Cthulhu va a rispolverare proprio questa figura mitologica dell'universo Lovecraft. Un lavoro che va a succedere a Yog-Sothoth del 2020, se non erro, mentre questo è del 2023. E allora sta per partire Sunken City of Rie. Ebbene, questo era Mythos of Cthulhu da The Great Old Ones, progetto diciamo B di Raffaele Pezzella, che ormai conosciamo bene sia come fondatore e di etichette, divulgatore di tantissimi artisti provenienti dai più remoti angoli del pianeta, attraverso la Nesplay Sounds Group, Late Tower Records, la Zero Key, la Reverse Alignment. Qui invece, con questi fondali scurissimi, evoca la figura di e il mito di Cthulhu di Lovecraft, andandosi a parametrare con le influenze, come giustamente ci fa notare Antonio Zovet, di Biosphere di Gary Jensen, il lappone, artista lappone, fino ad arrivare a sua maestà Brian Lassmore, il re dell'ambient da molti molti anni. Saluto Vulnus Aylin, storico industrial proveniente dal Piemonte, un saluto a Massimo e Tiziana. E anche Maralasi di Cala Litis. Andiamo in Germania, andiamo dagli Einsturzen Neubauten, del quale, come tutti sanno, ormai è uscito qualche mese fa un ultimo lavoro dal nome Rampen, che parzialmente riprende i disturbi sonici ed industriali degli inizi. Interessante sottotitolo APM Alien Pop Music. Stasera ci ascoltiamo Pistolozzi, dedicata al pedagogista svizzero, e Esconsign. Fragrant salt and rice. Bell Garden, key box rock, baking soda. Your purpose remedy. I'm sitting in my chair, feeling very pestilency, feeling very ASMU. Just give me the missing ingredients and easy nebulizer. A pack of bamboo skewers, any sin that isn't crap. Of dead sea salt, a pair of quail egg scissors, and a cellar full of noise. I wash them all together. I just want it. Das könnte sein. dass wir klarkommen, auch ohne nichts vermissen. Das könnte sein. Dunque, Pestalozzi e Sconte Sign, estratti da questo Rampen, questo ultimo lavoro di Einstürzen und Neubauten. Più volte ho detto che ormai sono lontani gli stridori e le austerità, i rigori della loro carriera iniziale, ma comunque poi nel corso degli anni hanno sempre composto delle onestissime, validissime ballate scurissime che di tanto in tanto si arricchiscono con i vecchi, con il vecchio rumorismo industriale. I collect my necessity. E d'altronde sono in attività ormai dal lontano 1981, se non erro, quando uscì Collapse. Remaining sleep. Ed è inevitabile, ritengo, che in 40 anni di carriera e più si possa variare in qualche modo. Nel loro caso, però, hanno mantenuto la giusta dignità e valore. Come dice anche il buon Cristiano Bocci, che saluto, al pari di Mariano Anni Terri e Antonella Germano Brucato. In autunno, in ottobre, verranno anche qui in Italia, qui a Roma esattamente, il 1 ottobre. I switch off the freezer. I switch off. Chi fa dell'unione della voce un certo tipo di sonorità elettroacustiche unite appunto alla voce usata come un vero e proprio strumento è Barbara De Dominicis. Ci sono alle origini anche jazz nel modo di esporsi. Before I go. Radice che viene fuori in questo Body Maps, sua ultima fatica. E ci ascoltiamo una lunga traccia dal nome Hands. Take out the trash and all its letters. I put the cryptic message on the door. I go. Of some day, lost, into the dark, to take obscurity and obscurity virtues. Hands, right, level animals, at a walking distance. From abandon, they were the smile of brittle pleasures. Your absence made my hands clever, clever. They know how to find you even when you're not there. Hands will always, always find me there after my legs. It's under my skin.

le impressionanti doti canore di Barbara De Dominicis, che si innesta perfettamente nel tappeto di provocazioni elettroacustiche di altissimo livello contenuto in questo Body Maps, lavoro del 2022 per quest'artista di origine napoletana ma trapiantata a Roma da molti molti anni. Suntuosi collaboratori Marco Bonini, Elio Martuscello, Marco Messina, Giulio Maschio, Erika Scherl e anche Teo Teardo. Vocalità anche vicine al jazz e più d'avanguardia. Artista fortunatamente ritornata in pista dopo qualche annetto di assenza attraverso la Fold Roll, etichetta romana. Per concludere le nostre riflessioni su Barbara De Dominicis, Antonio Zoviet tira fuori anche un paragone, diciamo, suggestivo attraverso la cantante di Lamb. Effettivamente ci sono delle tonalità in comune. Qui invece arriviamo a Gianluca Becuzzi. Sta iniziando lentamente la traccia che va a concludere Ekeit, il suo ultimo lavoro, uscito per la Dissipazio di Nicola Quiriconi, una delle etichette più interessanti negli ultimi anni qui in Italia. Questa lunga traccia si chiama Evil, Nature and Myth, ce ne ascolteremo una porzione più che consistente. Questa lunga traccia, dunque, per quanto riguarda Gianluca Becuzzi, è estratta da E Kate. 12 minuti, ce li siamo ascoltati, quasi 12 minuti, poi la traccia in realtà ne dura di più. C'è una piccola pausa al fine appunto del 12° minuto, il brano poi riprendere per svilupparsi per altri 4-5 minuti. Il brano in questione si chiama Evil Nature and Myth. Sembianza di tragico sabba, vero e proprio spettrale mantra. Lo sciamano Gianluca Becuzzi, che spesso arricchisce le selezioni del sottoscritto, una grande produzione per lui. Credo che verso la fine del 2024 uscirà un nuovo lavoro, un altro nuovo lavoro per Gianluca Becuzzi. Intanto sono le 21:54, questa è Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info per quanto riguarda il web. Domani mattina ci sarà il consueto podcast rintracciabile sui vari riferimenti social e sul sito di Radio Onda Rossa. Maya già si era allarmata dopo il gong, non sentiva più niente, ma è quello che dicevo prima. Pensavo riniziasse prima la traccia, in realtà poi si interrompeva oltre il lecito. Ecco, dunque, si va avanti e andiamo un po' anche per questa sera ad analizzare il tribute to Radio Legend, Artist for DJ Electrodo, quindi una qualcosa che mi riguarda e che stiamo sentendo ormai da molto. Questa compilation, che diciamo mio omaggio, è uscita il 14 marzo del 2024. In coincidenza con il mio compleanno, quindi una trentina di artisti mi hanno donato questo eccellente compendio in mio onore, diciamo, ed è stato bello che appunto questi 30 musicisti si siano uniti, frequentati e confrontati, e hanno partorito ben 41 tracce. Questa sera ci andiamo ad ascoltare Testing Vault, progetto di Daniele Santagiuliana. La traccia in questione si chiama Go For Broke, e poi ci andremo ad ascoltare anche Lupsi, Lucia Cagliazza, che vado a salutare, in coppia insieme a Noise Cluster in Crossing Winter Doors. Thank you.